e mi rispondo è già. Ti giuro sul mio onore che questo non succederà. Mio dolce amore, shake, shake, shake, shake, il mondo gira, shake, shake, shake, shake, con me respira, shake, shake, shake, shake, e na na na non finirà. Il mutuo da pagare, shake, i libri da comprare, shake, la rete per navigare, na na na non si pagherà. Perciò lavoro duro, anche se non c'è più futuro. Amore, te lo giuro, che non, non, non, non finirà. Mio dolce amore, shake, shake, shake, shake, il mondo gira, shake, shake, shake, shake, come respira, shake, shake, shake, shake, e na na na non finirà. Questione di ore, e questa terra esploderà.